morti. Addirittura questo italiano si è messo in ginocchio. E pregato, vogliono sparare, questo ho detto, non è niente, la sparata. Sono bastardi davvero, non ne hanno mai, hanno fatto sempre così anche in periodo di guerra, per ogni tedesco che moriva, non so quanti italiani ammazzava. Una decina, se. Quanta rita, alleluia. Bene, cari amici, da, sono andato a salutarvi, ho sentito che chiamavi, adesso vado a fare un po' di carica. No, io non la giocavo di mangiare, ho mangiato un po' di fette di anguria, quello sì, ma di mangiare, mia moglie ha fatto il pollo, cosa, ho detto lascia lì, non ne mangio, non ne ho voglia. Ah, io quando mangio un po' di frutta, la verità, io non mangio di cosa, assolutamente. Io posso mangiare una mozzarella alla caprese, frutta, roba fresca, e basta. L'anguria però per me è il massimo, è stata. Infatti, è rinfrescante pure, là. È una cosa rinfrescante. Gappa, gappa. Mamma, già di chi dai, a dopo se coincide. Gappa, gappa, buona carica, Falco. E via, ciao Gianni, ciao. Ciao.